Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini, poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso ai campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo. Ma guarda di qua, guarda di là. Non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: «Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore, per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio». Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e, coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un gran scoppio di pianto. Pianse tutta la notte e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre. E sebbene negli occhi non avesse più lacrime, le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E piangendo diceva: «Oh, fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E il mio babbo dove sarà, oh fatina mia? Dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più. Oh fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta. Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rivivisci, ritorna viva come prima. Non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che io faccia qui solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio, che morissi anch'io. Sì, voglio morire. E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli, ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. E intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza: «Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù? Non lo vedi? Piango!» disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta. «Dimmi!» soggiunse allora il colombo. «Non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?» «Pinocchio? Hai detto Pinocchio?» ripeté il burattino, saltando subito in piedi. «Pinocchio sono io!» Il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino. «Conoscerai dunque anche Geppetto?» domandò al burattino. «Se lo conosco, è il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi, per carità, è sempre vivo!» «L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare. Che cosa faceva? Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel pover'uomo son più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te. E, non avendoti potuto trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo. «Quanto c'è di qui alla spiaggia?» domandò Pinocchio con ansia affannosa. «Più di 1000 chilometri». «1000 chilometri? Oh, Colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!» «Se vuoi venire, ti ci porto io». «Come?» «A cavallo sulla mia groppa. Sei peso di molto». «Peso? Tutt'altro. Sono leggero come una foglia». E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al Colombo. E, messo una gamba di qua e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento: «Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto!» Il Colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quest'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare. Fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venir di sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il Colombo disse: «Ho una gran sete». «E io una gran fame», soggiunse Pinocchio. «Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare». Entrarono in una colombaia deserta, dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vece. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vece. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma Quella sera ne mangiò a strippapelle e quando l'ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse: «Non avrei mai creduto che le veci fossero così buone». «Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le veci diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie». Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via! La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare. «Che cos'è accaduto?» domandò Pinocchio a una vecchina. «Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliuolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua». «Dov'è la barchetta?» «Eccola laggiù, diritta al mio dito», disse la vecchia accennando. Una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando: «Gli è il mi babbo, gli è il mi babbo!» Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare, e Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e, a furia di gesti, gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro. Ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare. Pover'uomo, dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia. Brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case. Quando ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro, videro un ragazzetto che, divetta uno scoglio, si gettava in mare gridando: «Voglio salvare il mio babbo!» Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente, nuotava come un pesce, ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più. «Povero ragazzo», dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia, e brontolando sottovoce una preghiera tornarono alle loro case. Thank you.